Come ho detto prima, in questa avanzata e fuga dei nazifascisti si arriva, cioè, lungo questa direttrice si arriva appunto fino a qui. E come si è detto precedentemente, lungo le direttrici ferroviarie c'erano queste continue incursioni da parte dei tedeschi, in particolare da parte di questi corpi d'élite, diciamo così, quindi da parte dei paratutisti. Il 21 d'agosto, quindi no durante quel giorno importante per la liberazione di Firenze, quindi il 21 d'agosto c'è una tra le incursioni più sanguinose, diciamo, da parte di questi reparti nazisti. E qui appunto arrivano dalla ferrovia, diciamo, da via Giuliani, e vengono respinti, muore 7-8 dei paratutisti tedeschi, e parte partigiana muore Eugenio Poli, comandante libero. Ed è una morte pesante, perché era tra i morti, diciamo, Rigacci, Chiostrini e poi successivamente Buti, sono tutti ragazzi di 22-23 anni, diciamo, la parte combattente, la parte conflittuale dei partigiani, cioè non sono quelli i burocrati, diciamo, che comunque c'erano anche nelle file della resistenza, non sono, diciamo, i comandanti di settore, sono proprio i soggetti che molto probabilmente nell'immediato dopoguerra sarebbero stati quelli che avrebbero portato avanti tutte le iniziative sul territorio. È gente che muore purtroppo a 200-300 metri da casa, sostanzialmente, quindi no dei professionisti della politica, ma dei ragazzi che durante questo periodo si uniscono alla resistenza, e si uniscono alla resistenza non per un generico ribellione verso i tedeschi, ma anche per portare avanti tutta una serie di percorsi che vengono troncati sostanzialmente. E questa incursione del 21 è importante, la risposta, perché sostanzialmente dopo questa incursione finiscono questi tentativi di riconquista della linea del fronte da parte dei nazisti. Da quel momento in là, dopo appunto aver respinto questa ulteriore incursione su cui avevano speso molto i tedeschi, sia da un punto di vista, diciamo, qualitativo, e da un punto di vista quantitativo, sostanzialmente comincia, seppur lentamente, l'avanzata verso la parte più nord della città. E quindi da qui, appunto, ricordiamoci, siamo il 21, è sempre la giornata del 18, le truppe partigiane arrivano fino a Piazza Dalmazia e fino alle officine Galileo. Teniamo sempre presente che chiaramente non c'è il sottopassaggio, non c'è questo... C'è questo muro, sostanzialmente, la ferrovia è poca cosa, insomma, in quel periodo lì. Ecco. C'era un passaggio a livello, sì, insomma, dove c'è il sottopassaggio grosso, c'era un passaggio qua. Già, avanti.